Roberto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tutti che sono tutti innocenti e mi porto tutti i cani, perché chi se sono solo diffamazioni, chi se da congiura, chi se sono abusi di potere che stanno facendo, perché vogliono distruggere tutta la mia famiglia e sono innocenti e spera Madonna da grazia come faccio sta grazia, un essere tutto oceano e mo mi faccio morire pure a mia, ma io intanto mi caccio l'oceano che sono innocenti, che il signore grida vendetta. Perché sapete che picciolo? I condannarono come Giuda condannava i signori. I misero in croce come un signore. Come Giuda mi sono signori in croce. Come misero in croce chi fa il resto maniera. De pelle e de mani. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, era lo sfogo tiratissimo di Domenica Mazzagatti, figlia del boss Giuseppe Mazzagatti, che è il boss davanti alla casa del quale, a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, la processione delle polemiche, diciamo così, di questi giorni ha fatto sosta per far inchinare la statua della Madonna. Il boss è condannato all'ergastolo, ma è agli arresti domiciliari per motivi di salute, e sono in galera anche sei nipoti di questa donna che si è sfogata, come avete sentito, e anche il fratello per 'Ndrangheta, e lei però diceva, avete sentito, li hanno mandati innocenti in galera, li condannarono come Giuda condannò il Signore facendolo mettere in croce, cioè, insomma, diventa questione di punti di vista, diciamo così. Questo tanto per iniziare questa settimana, questa puntata. Vi ricordo, l'ultima settimana di Effetto Notte, poi Effetto Notte va in vacanza, io no, ma quindi restate con Effetto Notte tutta la settimana. Ci sono moltissime cose che vi racconterò giorno per giorno, naturalmente. Oggi è molto centrale la questione politica, perché sono sempre in primo piano le riforme, però c'è stato un botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e PD, in particolare tra Renzi e Grillo, che ha avuto un'evoluzione molto particolare durante la giornata. Da una chiusura molto forte di oggi, poi si è arrivati invece a una svolta, un'apertura, di cui parleremo tra poco. L'altra questione è quella della riforma del Senato. Oggi è uscito un sondaggio di cui parleremo, e vorrei chiedervi, questo benedetto Senato, lo preferite elettivo come è stato sinora, cioè eletto quindi dagli elettori, più o meno, insomma, con liste bloccate, quello che volete, oppure lo volete secondo la riforma Renzi, cioè una specie di Camera delle regioni, un Senato delle regioni, quindi con sindaci e consiglieri regionali che vengono scelti dai consigli regionali, appunto consiglieri regionali e sindaci che scaturiscono da lì, diciamo. Che cosa preferite? Poi parleremo del sondaggio, mi piacerebbe sapere voi cosa pensate al 349-238-6666, se lo preferite elettivo oppure con questa formula, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che sapete è sempre lì a disposizione. Ma intanto vi racconto la giornata di oggi. Riforme, salta l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle, indignazione di Grillo che parla di dittatura di sbruffoni, ma poi dal Movimento arrivano 10 sì al PD. Il vertice dell'Eurogruppo, i falchi sottolineano per l'Italia prima le riforme e poi la flessibilità, ma Padoan parla di conti italiani tra i più sostenibili. È morto Shevardnadze, con Gorbaciov mise fine alla guerra fredda. Pedofilia, il Papa chiede perdono alle vittime, gli abusi e i suicidi pesano sulla coscienza della Chiesa, dice. La processione con l'inchino al boss, il presidente dei Vescovi Calabresi sottolinea, andava fermata. E per il calcio, a Madrid è morto a 88 anni Alfredo Di Stefano, leggenda e signore del calcio, e per quanto riguarda il mondiale invece riprende domani. Partiamo quindi dalla politica, dagli intoppi sulla strada delle riforme, con il confronto saltato tra PD e 5 Stelle che doveva esserci oggi. C'è stato un sostenuto botta e risposta, vi dicevo, a distanza tra Grillo e Renzi, ma nonostante i toni aspri la porta pareva restare almeno socchiusa, diciamo, verso la serata. Poi la svolta, questi 10 sì con le dovute osservazioni contenuti in un lungo decalogo pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle accoglie in questo modo, di fatto certificando la sua scelta con un sì scritto in grassetto, le 10 proposte del PD su riforme e legge elettorale. Stasera intanto c'è la riunione dei senatori del PD e si parlava di possibile resa dei conti, ma pare che Renzi non sia presente, non ci sarà. E sul fronte europeo oggi invece c'è stato l'Eurogruppo, il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, al centro sempre la questione della flessibilità, ma poi nello spazio europeo stasera Effetto Notte capiremo un po' quali sono state le conclusioni, se ci sono state, di questo Eurogruppo. Adesso invece parliamo della Chiesa. In Vaticano oggi c'è stato l'incontro tra il Papa e le vittime della pedofilia. Chiedo perdono per i peccati e gravi crimini sessuali commessi dalla Chiesa, così Papa Francesco, che per la prima volta riceve in udienza le vittime di abusi da parte di religiosi, atti esecrabili che hanno lasciato cicatrici per tutta la vita, così li definisce il pontefice nell'omelia della messa celebrata questa mattina a Santa Marta. Gli abusi del clero sui bimbi e i suicidi di chi non ha retto alla pena pesano sul mio cuore, sulla mia coscienza e su quella della Chiesa, ha detto ancora Francesco parlando di culto sacrilego con cui i sacerdoti hanno profanato la stessa immagine di Dio. Dopo la funzione il Papa ha avuto lunghi e approfonditi colloqui privati con ognuna delle 6 vittime, 3 uomini e 3 donne provenienti da Germania, Irlanda e Regno Unito, così come ha raccontato al termine il portavoce vaticano padre Federico Lombardi. Il Papa è stato in colloqui personali per oltre 3 ore di seguito, con lo stile che gli è abituale di colloquio, molto coinvolto, molto personalmente intenso e attento. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la stessa Chiesa ha preso le distanze dalla processione calabra con, vi dicevo, inchino sotto la casa del boss. Dopo le polemiche e le molte reazioni, la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria apre un fascicolo sulla processione di Oppido Mamertina, su quella sosta della statua della Madonna fatta fermare davanti alla casa di un boss condannato all'ergastolo ma ai domiciliari per motivi di salute. Un gesto di rispetto di fronte al quale i carabinieri del paese, per dissociarsi, hanno deciso di abbandonare il corteo. Dispiace che anche i preti non abbiano avuto il coraggio non di andare via ma di scappare, commenta oggi Monsignor Salvatore Nunnari. Bisogna avere il coraggio di fermare le processioni, spiega il presidente dei vescovi calabresi. Dopo aver provato a ridimensionare l'episodio, intanto il sindaco di Oppido, Domenico Giannetta, fa sapere che in caso di processo il comune si costituirà parte civile. Sentiamo quindi la sobrietà di condannare comunque il gesto se l'obiettivo è rendere omaggio al boss, perché ogni cittadino deve essere riverente alla Madonna e non si debba verificare il contrario. A commentare la vicenda è anche Nicola Gratteri. Secondo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, quello che è successo ad Oppido sembra una sfida dopo la scomunica dei mafiosi pronunciata proprio in terra calabra da Papa Francesco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vedo intanto già diversi vostri messaggi sul Senato elettivo oppure riformato, quindi composto da sindaci e da consiglieri regionali. Poi ne parleremo e leggerò anche i vostri messaggi. Spostiamoci intanto all'estero. Sono liberi 2 tecnici stranieri scomparsi sabato scorso in Libia insieme con Marco Vallisa, l'italiano. Di lui però ancora non si ha nessuna notizia, ma si sta lavorando nel massimo riservo, almeno così ha garantito la ministra degli esteri Mogherini, che oggi era in visita a Kiev in Ucraina. Restiamo all'estero per l'addio a Shevardnadze. L'astuzia politica riconosciutagli negli anni della guerra fredda da molti leader occidentali gli valse il soprannome de La Volpe. Il primo a piangere la sua scomparsa è stato Mikhail Gorbachev, e non è un caso, perché Eduard Shevardnadze, georgiano, è stato proprio con Gorbachev uno dei primi a perseguire le politiche della perestroica, della glasnost e della distensione, uno dei primi a comprendere e riconoscere il crollo imminente dell'Unione Sovietica. È morto a 86 anni, lasciandosi alle spalle una lunghissima carriera politica. Ha rappresentato nel bene e nel male una delle figure chiave della guerra fredda e degli anni successivi. Nel 72 è stato eletto primo segretario del Partito Comunista della Georgia. Dall'85 al 90 ha ricoperto la carica come ministro degli esteri dell'Unione Sovietica. Si era creato l'immagine di un ministro moderno e democratico. Era molto popolare in Occidente. Nel 90 Washington ha posto fine ad una lunga pausa nelle relazioni fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Nel dicembre dello stesso anno rassegnò le dimissioni, avvertendo Gorbachev che le riforme stavano fallendo e che presto i vecchi poteri avrebbero ripristinato la dittatura. E in effetti nell'agosto del 91 esponenti del Partito Comunista e dell'esercito tentarono un golpe, il putsch fallì e a novembre Shevardnadze fu richiamato a capo della diplomazia di Mosca, ma il nuovo incarico durò meno di un mese, come l'Unione Sovietica. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulle questioni italiane, parliamo di Mediaset e di nuovi affari con il colosso spagnolo delle telecomunicazioni telefoniche. Mediaset in 2 giorni ha venduto a Telefonica sia la quota, pari al 22%, detenuta nella Pay TV spagnola, sia poco più dell'11% della piattaforma italiana Premium. Le risorse ottenute dalle 2 operazioni, alle quali va aggiunto il collocamento 3 mesi fa del 25% della società che detiene le torri, serviranno per cogliere tutte le opportunità e per ridurre l'indebitamento, non quindi per finanziare gli investimenti su diritti TV legati al calcio, che vengono ripagati con gli stessi abbonamenti. tutti, ha spiegato il direttore comunicazione Mediaset Paolo Calvani, e a breve potrebbe arrivare altra liquidità. C'è un interesse, manifestazioni concrete, si è aperto una data room, alcuni player hanno guardato i conti, sono quelli onestamente di cui la stampa ha avuto indiscrezioni, altri se ne sono aggiunti nelle ultime ore, però al momento onestamente non c'è nessun accordo scritto, nessun contratto firmato. I nomi di cui si è parlato sono Al Jazeera e Vivendi. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca. È clinicamente morto Riccardo Bazzurri, il carrozziere di 32 anni che ieri ha sparato e ferito a Perugia l'ex compagna, il figlio di 2 anni e un'amica della donna, prima di puntare la pistola verso se stesso. Da ieri in rianimazione, Bazzurri è nello stesso reparto dove si trova in condizioni stazionarie ma gravissime la sua ex compagna di 24 anni, la sua amica di 34. Il piccolo è stato invece trasferito in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, anche lui con una gravissima ferita alla testa. E parliamo adesso della Camera Ardente per Giorgio Faletti. Centinaia di persone sono arrivate al Teatro Alfieri di Asti per rendere omaggio alla salma di Faletti. Decine di amici, conoscenti, ma soprattutto ammiratori, gente comune che lo considerava uno di famiglia. Prima all'ospedale Molinette di Torino, poi al Teatro Alfieri della sua Asti per salutare Giorgio Faletti. Niente fiori per volontà sua e della famiglia, che ha richiesto invece donazioni all'Associazione per la ricerca sul cancro. Un via vai silenzioso tra chi ha voluto omaggiare Giorgio Faletti, l'amico di sempre e collega Carlo Pistarino. Adesso faccio una canzone. No, ha scritto minchia signor tenente. Adesso scrivo un libro, io potrei scrivere un libro di battute, lui ha scritto 4 romanzi, è stato giudicato uno dei più grandi scrittori di... Niente. Asti ha proclamato il lutto cittadino per i funerali che si terranno domani alle 15 nella chiesa della collegiata di San Secondo. Bandiere a mezz'asta, in tutti gli uffici pubblici un minuto di silenzio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è stato un lutto nel mondo del calcio alla vigilia delle semifinali mondiali. Domani ci sarà Brasile-Germania, poi dopodomani Argentina-Olanda. È morto Alfredo Di Stefano, 88 anni, argentino, da molti considerato il più grande campione di tutti i tempi. Con il Real Madrid, di cui era presidente onorario, conquistò 5 coppe campioni, segnando in ognuna delle finali, e fu 2 volte pallone d'oro. È stato il più grande, ricorda Sandro Mazzola, che proprio contro il Real Di Stefano conquistò con l'Inter la Coppa Campioni alla finale vinta a Vienna per 3-1 nel 1964. L'ha intervistato Dario Ricci. Quando andammo a Vienna, nel sottopassaggio, poi si passava sotto le tribune per andare in campo, a un certo punto quando lo vidi rimasi folgorato, perché io andavo quando ero qualche anno prima di giocare, il Real era sempre in finale e io non avevo la televisione a casa, andavo in osteria sotto casa, un bicchiere di spuma Johnny, potevi vedere la televisione e vedevo questo grande giocatore che partiva dalla sua area, sapeva fare tutto, dribblare, tirare, lanciare, e quindi per me vederlo era il massimo. Fuori dal campo Di Stefano, uomo altero, era un po' veramente consapevole di essere il re di quel calcio, no? Ma penso di sì, però io nelle volte che l'ho visto non mi sono mai reso conto di questa alterigia. Non era uno che se la tirava, ecco. È stato veramente il più grande? Secondo me sì, più completo di Maradona, più completo di Pelé, di Cruyff. Lui sì, faceva gol, ma faceva fare gol, sapeva difendere, sapeva rientrare, ripartire e poi comandava la squadra. E per chiudere il ciclismo, con la terza tappa del Tour de France. Davanti al Palazzo della Regina, davanti ad un paese in delirio, davanti a José Mourinho che si è fatto regalare la maglia di campione del mondo dal portoghese Rui Costa, davanti al mondo intero il tedesco Marcel Kittel ha concesso il bis in una volata senza storia e per la storia. Una fotografia da mettere in bella mostra e da far vedere tra qualche anno ai nipotini. Lui braccia al cielo all'ombra di Buckingham Palace, tutto solo con alle spalle lo slovacco Peter Sagan, che nemmeno riesce ad affiancare il Marcello il Bello. Festa grande a Londra. Gli organizzatori parlano di 1,5 milioni di spettatori sabato, 3 milioni ieri e 5 oggi a Londra, nonostante la pioggia nel finale. Festa grande anche per il nostro Vincenzo Nibali, che si gode lo spettacolo da dentro e porterà fuori dall'Inghilterra questa sera con un volo aereo la maglia gialla in Francia. Domani quarta tappa da L'Etouquet, Paris Plage, nota spiaggia della Normandia, a Lilla. Tappa per velocisti, Marcello il Bello è pronto per salire ancora sul podio, come il nostro Nibali, che questa maglia gialla vuole tenerla ancora per qualche giorno, almeno fin dopo la tappa con il pavé della Roubaix. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Voglio aggiungere però ancora una notizia. Sapete, le 300 più studentesse rapite in Nigeria perché integralisti islamici le vogliono sottrarre allo studio al rischio di contaminazione occidentale. Bene, 63 sono riuscite a fuggire, per fortuna, però ne rimangono ancora in mano integralisti più di 200. Ecco, questa notizia la volevo dare. Poi ci sono i vostri messaggi, rispondo a Clotilde che purtroppo così stanno le cose, non ho una risposta da darle. Tra pochissimo parliamo di politica, vedo molti messaggi, vedo coinvolti sulla questione del Senato, quindi continuate a rispondere sulla pagina di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 con i vostri messaggi, se preferite il Senato elettivo oppure quello della riforma Renzi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco qui, di nuovo insieme. Tra poco vi ricordo le notizie più importanti della giornata, se avete acceso adesso, se le volete risentire, ogni volta ve lo dico, a volte può essere anche importante riavere un po' un riassunto in certi momenti dopo delle pause. Allora, iniziamo dalle riforme con lo scontro tra Grillo e Renzi, è saltato l'incontro, poi ci sono stati 10 sì del Movimento 5 Stelle alle proposte del PD sul blog di Grillo. E intanto Napolitano dice urgente superare il bicameralismo paritario. Il ministro dell'economia Padoan all'Eurogruppo dice che i conti italiani sono tra i più sostenibili, intanto però continua a esserci in primo piano la questione della flessibilità. Sulla pedofilia c'è stato il mea culpa oggi del Papa per gli abusi e i suicidi, pesano sulla coscienza della Chiesa, ha detto è stata profanata l'immagine di Dio. E poi la processione delle polemiche di questi giorni, ha fatto inchinare praticamente la statua della Madonna davanti alla casa del boss, anatema della Chiesa, anche i dovevano scappare, dice il vescovo calabrese, e al via l'inchiesta, parte un'inchiesta. E poi addio a Di Stefano, la leggenda del Real, il Brasile col fiato sospeso per la sfida poi domani con la Germania. E adesso invece parliamo delle riforme, ma in particolare di questo incontro che è saltato oggi tra il PD e il Movimento 5 Stelle, no? Che era stato annunciato la scorsa settimana, con, vorrei farvi, prima di salutare il pregevolissimo ospite, tra poco che ben conoscete, vorrei fare una specie di cronistoria molto breve della giornata di oggi. Allora, partiamo prima di tutto con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che una volta che è saltato l'incontro in conferenza stampa così ha detto: noi ci diciamo veramente esterrefatti sul comportamento di oggi, perché correttezza istituzionale vorrebbe che se tra due cariche istituzionali c'è un accordo, quantomeno si comunica all'altro che vuoi disdire l'appuntamento. Io ho parlato con Lorenzo Guerini giovedì e abbiamo fissato l'appuntamento per oggi alle 15. Lorenzo Guerini non mi ha fatto sapere nulla. Siamo venuti a sapere che l'incontro era saltato dai comunicati stampa. Questo significa che d'ora in poi noi parliamo solo con Renzi, perché nel PD non sono affidabili gli interlocutori che si sono interposti tra noi e lui in questo momento. Questo Luigi Di Maio, quindi il Movimento 5 Stelle, però aveva detto anche: ma questo non significa che facciamo saltare il tavolo, perché noi vogliamo partecipare a queste riforme. Poi però c'è stato nel tardo pomeriggio la risposta a muso duro di Beppe Grillo sul suo blog. Sentiamo come ha di nuovo attaccato duramente Renzi. È avvenuto questa applicazione di questa democrazia light. Qui verso una dittatura di stampo legale che la maggior parte di persone magari non avverte, perché è condizionata a considerarla pezzo per pezzo, no? La giustizia, il lavoro, l'Europa, e mentre la guardi nei suoi pezzi si perde la visione globale. La visione globale è una dittatura fatta da questo ebettino, che è un ebettone pericolosissimo, quindi molto sottovalutato anche da me, e questo me ne dispiace. Ma andiamo verso veramente una grande criminalità organizzata di stampo democratico. Quindi insomma un attacco senza peli sulla lingua. Dopodiché però Grillo ha detto ancora più tardi, quindi poco fa, diciamo cosa state, 2 ore fa, per chi non ha capito 2 ore fa o non ha voluto capire, tra il mio intervento di oggi e la conferenza stampa di Di Maio e Toninelli, i due del Movimento 5 Stelle, non vi sono contraddizioni. Le porte per una discussione sulla legge elettorale per il Movimento 5 Stelle però sono sempre aperte, né mai le abbiamo chiuse nonostante le provocazioni. Poi c'è anche Di Maio che di nuovo torna e dice la nostra opinione negativa su di loro, nel senso di PD, non è mai cambiata, cerchiamo solo di dargli qualche opportunità di farne una buona ogni tanto. E alla fine, se guardate sul blog di Beppe Grillo, ci sono i 10 sì alla proposta di riforma di legge elettorale del PD con le dovute osservazioni. E allora a questo punto chiedo diciamo una interpretazione esegetica a Stefano Folli, editorialista di Sole 24 Ore, che ben conoscete da tempo, grande notista politico. Stefano, come la vedi, insomma? Ho tentato di fare una sintesi. No, è molto efficace. Si vede come il Movimento 5 Stelle non sia avvezzo ancora alle manovre parlamentari. In questo ping pong Renzi e i suoi sono molto più abili. E ora, questo colloquio, questo dialogo sulle riforme, a mio avviso non aveva mai una grande probabilità di successo fin dall'inizio, però oggi mi sembra che ci siano parecchie contraddizioni nelle reazioni dei 5 Stelle, che si sono trovati spiazzati. Si vede anche delle cose che hanno detto, che tu hai raccolto, e alla fine no, stasera dicono sì ai 10 punti richiesti dal Partito Democratico. Beh, forse era meglio che l'avessero fatto stamattina, così toglievano alibi a Renzi, che certamente non aveva interesse, non ha interesse a mandare avanti questo rapporto, no, questo confronto, perché significherebbe rimettere in discussione troppe cose. Quindi un dialogo che non aveva un grande futuro fin dall'inizio e che adesso diventa una cosa piuttosto confusa e piuttosto complicata, quando invece la partita delle riforme si sta giocando su un altro tavolo, che è quello che riguarda il malessere all'interno del Partito Democratico, all'interno di Forza Italia, e il rapporto tra il Partito Democratico di Renzi e il partito di Berlusconi. Ma quindi a questo punto questa apertura finale del Movimento 5 Stelle, anche, dicevo, adesso non lo leggo né a te Stefano né agli ascoltatrici e agli ascoltatori, perché è troppo lungo, perché sì, per ogni punto danno una risposta molto lunga. Quindi come va a finire e che significato ha a questo punto? Ma io penso che Renzi non abbia interesse a farsi coinvolgere in uno stillicidio di incontri con i 5 Stelle, no? Però penso anche che Grillo comunque, pur muovendosi, ripeto, fra contraddizioni, però in Parlamento lui sulla legge elettorale può giocare un ruolo di disturbo piuttosto significativo, entrando un po' anche nelle contraddizioni del Partito Democratico e di Forza Italia, soprattutto sulla riforma elettorale, appunto, che è il tema vero, secondo me, il vero punto su cui si può decidere anche il futuro politico di Renzi, è la riforma elettorale, ancor più di quella del Senato, che è significativa, è molto significativa sul piano istituzionale, ma meno importante dal punto di vista politico. Invece la riforma elettorale è quella che può permettere a Renzi, con le prossime elezioni politiche, di conquistare stabilmente il centro della scena. Su questo Grillo ha delle carte da giocare per tentare di tagliargli la strada, insomma. Tra l'altro, Stefano, in serata, non so adesso se è già finita, com'è andata questa riunione dei cosiddetti dissidenti, senatori dissidenti del PD, che vorrebbero il Senato elettivo e anche su altre questioni, insomma, non sono, sono un po' i civatiani, per lo più non d'accordo con Renzi, un uomo solo al comando. Sì. Ecco, Renzi, si leggeva dei titoli, ha snobbato questa riunione, per dire, non ti sembra, a te, secondo te lui deve andare avanti così, insomma, un po' come uno schiaccia sassi, perché altrimenti le cose non si fanno, o dovrebbe anche avere più capacità di ascolto, di mediazione? Io ho sempre pensato e ho anche scritto sul Sole che sulla riforma del Senato e anche sull'Italicum, cioè sulla legge elettorale, era necessario essere un pochino più duttili, essere capaci anche di capire alcune delle ragioni degli oppositori e non qualificarli semplicemente come dei conservatori che vogliono impedire qualsiasi cambiamento, perché non è esattamente così. Ora la situazione è abbastanza incancrenita, quindi non sarà facile uscirne. Probabilmente il rischio vero è che manchi una maggioranza a 2/3 al Senato, quando si voterà sul Senato, e questo naturalmente determina un allungamento dei tempi, perché rende obbligatorio il referendum confermativo per far passare la riforma del Senato, il che, ripeto, i tempi sono più lunghi. Questo penso che sia il risultato che possono ottenere gli oppositori, coloro che stanno presentando emendamenti sui vari punti della riforma. Certamente la situazione è abbastanza inasprita, ecco, non c'è dubbio. Stefano, ti tratterrei ancora qualche istante, perché c'è in collegamento Antonio Noto, direttore di IPR Marketing, Istituto di Sondaggi. Buonasera, Noto. Buonasera. Lei ha fatto un sondaggio, il suo istituto ha fatto un sondaggio sulla riforma del Senato. Se gli italiani preferiscono che ci sia questa riforma o preferiscono abolirlo del tutto, e se invece si mantiene, se debba essere sempre elettivo oppure riformato, per l'appunto. Mi dice quindi quali sono i dati salienti? I risultati sono abbastanza interessanti per due ordini di motivo. Uno, la maggioranza degli italiani vorrebbe abolire il Senato, cioè nel senso ormai il messaggio di comunicazione prevalente che è passato e che il Senato è un po' una sorta, come dire, di palla al piede delle istituzioni, che il Senato fa ritardare la promulgazione delle leggi e così via. Quindi, essendo passato questo messaggio, la maggioranza degli elettori dice che sarebbe necessario avere solamente una Camera e il Senato può essere completamente abolito. Però se invece la legge prevede che il Senato debba continuare a vivere, ecco che gli elettori si immaginano un Senato un po' diverso rispetto a quelle che sono, puoi dire, le proposte della maggioranza. Cioè, vale a dire, prima di tutto gli elettori vogliono un Senato elettivo. Più della metà dell'elettorato vuole un Senato elettivo, ma vuol dire, io non lo definirei neanche, puoi dire, una valutazione politica, una valutazione ideologica, sembra quasi più una valutazione logica, no? Nel momento in cui ci devono essere dei senatori, li vogliamo eleggere noi. Li vogliamo leggere noi. Poi abbiamo visto quanto la partecipazione degli italiani sia forte, sia stata alta alle primarie, comunque alta anche alle elezioni politiche, quindi voglio dire, c'è voglia di partecipazione, ben venga questa voglia di partecipazione. Certo. Poi sulle funzioni invece, altra cosa importante che ci hanno detto gli elettori, vedrebbero il Senato fondamentalmente o composto non da partiti politici, ma da associazioni, società civile, vorrebbero vedere nel Senato le varie istanze che non sono rappresentate invece alla Camera, in cui invece sono rappresentati i partiti politici. Come seconda opzione invece vorrebbero vedere il Senato composto da quei partiti che per via della soglia di sbarramento non riescono a essere rappresentati alla Camera e potrebbero essere rappresentati al Senato. Solamente come terza ipotesi c'è invece il Senato fatto da consiglieri regionali e sindaci, che è un po' la proposta di Renzi. Quindi solo la terza ipotesi. Io la ringrazio. Grazie moltissimo Antonio Noto, grazie di questi dati del suo sondaggio. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Stefano, hai voglia di commentare questo risultato? Ma certo, mi sembra una fotografia molto aderente alla realtà. O si dice che il Senato deve essere abolito perché ha fatto il suo tempo, perché basta il sistema monocamerale di Montecitorio, oppure togliere agli elettori la possibilità di nominare, di eleggere questi parlamentari, beh, naturalmente è qualcosa di molto impopolare. Ecco la questione di fondo. Quindi questo comporta un giudizio sui partiti, un giudizio favorevole invece alle associazioni, alle funzioni di questa seconda Camera. Questo dimostra come il progetto del governo su questo aspetto sia carente, a mio avviso. D'altra parte, insomma, i consiglieri, le regioni non è che si siano in questi anni illustrati per particolari meriti, abbiamo tantissimi inquisiti anche nelle regioni, quindi l'idea di trasferire questo personale politico nella seconda Camera senza passare nemmeno per le elezioni suscita un certo disagio, cose che si possono, a mio avviso, risolvere e affrontare e risolvere, non sono irrisolvibili questi problemi, però non so perché si è arrivati proprio invece a questa situazione così inasprita, perché non si è voluto prendere in considerazione delle soluzioni magari ragionevoli. Quindi tu dici in questo caso, appunto, come dicevi prima, come anticipavi prima, Renzi forse è un po' sbagliato, doveva essere più duttile, un po' più flessibile. Ma il punto di fondo, Roberta, è quello che richiamava stasera il Presidente della Repubblica in questo importante intervento che ha svolto, che il superamento del bicameralismo, cioè il fatto che tutto debba essere duplicato, no, tra Camera e Senato, e questo allunga enormemente i tempi della legislazione. Questo è un punto fondamentale. La riforma deve servire a superare il bicameralismo, a fare soltanto della Camera dei Deputati il centro, diciamo, del confronto col governo e quella su cui il governo prende la sua fiducia. Il Senato deve svolgere funzioni diverse. Quindi questa è la questione di fondo su cui credo che la maggior parte degli oppositori, dei dissidenti, credo che sia d'accordo. Possa essere d'accordo, ma questo proprio di sì. Dove nasce il problema? Su queste altre questioni che Noto ha ben descritto prima, ed è su questo che secondo me si potrebbe ancora oggi, penso, trovare attraverso gli emendamenti una composizione della discordia. Vedo velocemente, poi ti lascio il tuo lavoro, Stefano Folli, sulla pagina Facebook di Effetto Notte Andrea dice: sarebbe meglio fare qualcosa di serio per i lavoratori, aziende, pensionati, vabbè, sempre il benaltrismo. E poi invece Elias dice: il Senato deve essere abolito, non serve a nulla, blocca tutte le leggi. Domenico: e se lo chiudessimo del tutto, lo stabile lo si darebbe in affitto per convegni, conferenze, ci guadagneremo pure. E poi gli altri messaggi, anche agli sms: lo vogliamo chiuso, tutti a casa, dice Vito. Anche Roberto da Milano: lo preferisco cancellato in toto. Lorenzo da Palermo: una camera va abolita e il resto è fumo negli occhi. Vito dice: non lo vogliamo per niente, facciamoci un museo. Antonio: benissimo la riforma Renzi, quindi lo vuole, ma non elettivo. E poi un altro messaggio: ok, al Senato non elettivo, proprio come proposto dalla Boschi. E poi tanti altri, insomma, questo per dire, Stefano, che effettivamente, come diceva prima anche Noto, c'è un certo malcontento, no? Ormai l'opinione in generale pubblica è quella che sia effettivamente una zavorra, e poi tutta l'indignazione nei confronti della casta, no? Degli ultimi anni con la crisi eccetera. E poi su questa cosa dell'elettivo, effettivamente, come dici tu, forse una riflessione in più, chissà se avrà modo di farla Renzi, effettivamente non potrebbe essere. L'obiettivo della riforma è chiaro, che abbiamo detto: superare il bicameralismo. Come ci si arriva? Insomma, secondo me ci si poteva arrivare un po' meglio, ecco, ci siamo persi un po' in un bicchiere d'acqua. Grazie Stefano Folli. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ci prendiamo questa piccola pausa, voi potete continuare a scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia i messaggi 349-238-6666, pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi fino alle 22, tutte le sere, ancora per questa settimana, perché poi Effetto Notte va in vacanza. Vedevo ancora tanti dei vostri messaggi sul Senato. Un altro messaggio dice: il Senato deve chiudere completamente, le spese si devono totalmente eliminare. Walter dice: se la democrazia in Italia fosse una certezza e non solo una parola dietro la quale troppa gente inutile si nasconde, già da tempo il Senato sarebbe solo un ricordo. E un altro scrive, non si firma: ma non sarebbe stato meglio abolirlo e basta il Senato? Punto di domanda, non mette per scritto il punto di domanda. E poi Franco: finché anche il Senato elegge il Presidente della Repubblica deve essere elettivo, ma sarebbe una funzione che credo leverebbero queste. Comunque anche la Camera va ridotta, le riforme si fanno in Parlamento e non il duo Renzi-Berlusconi, dice Franco. Adesso però tra poco parleremo della presa di colpa su di sé del Papa e sulla Chiesa a proposito di pedofilia oggi, però prima vi ricordo quali sono state le notizie più importanti della giornata. Le riforme, è saltato l'incontro, diciamo, tra PD e Movimento 5 Stelle, c'è stata l'indignazione di Grillo che parla in un primo tempo di dittatura di sbruffoni, poi però dal suo blog il Movimento 5 Stelle dà 10 sì al PD, alle proposte sulla riforma elettorale del PD. Il vertice dell'Eurogruppo, i falchi sottolineano che per l'Italia ci devono essere prima le riforme, poi la flessibilità, ma il ministro Padoan parla di conti italiani tra i più sostenibili. La scomparsa di Shevardnadze con Gorbaciov mise fine alla guerra fredda, poi diventò presidente della Georgia. pedofilia. L'abbiamo detto, il Papa chiede perdono alle vittime e poi la processione con l'inchino al boss. Il presidente dei Vescovi Calabresi sottolinea che andava fermata quella processione. Per il calcio, il lutto per Alfredo Di Stefano, che è morto a Madrid a 88 anni, leggenda e signore del calcio. Il mondiale, continua il mondiale, riprende domani. Dicevo, quindi, il Papa oggi nell'omelia della messa che ha tenuto a Santa Marta, con sei vittime della violenza dei preti, tre uomini e tre donne che arrivavano dalla Germania, dall'Irlanda e dal Regno Unito, ha chiesto perdono, ha detto che questi abusi, la pedofilia e soprattutto i suicidi, che in molti casi sono seguiti, pesano profondamente sulla sua coscienza, sulla coscienza della Chiesa. Dice, tanti bimbi sacrificati e la concupiscenza è stata profanata in questo modo l'immagine di Dio, quindi una condanna netta. Ha anche assicurato il Papa che ci sarà vigilanza sulla formazione dei preti. Allora saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Sì, ciao a te, ciao a tutti. È questo un ulteriore passo, no, di Papa Bergoglio in questa direzione, perché già si era capito all'inizio del suo papato. Avevamo detto tempo fa che forse già Benedetto XVI, no, si era mosso non con il clamore e con l'apertura così, così grande di Papa Francesco, però aveva forse iniziato lui questo percorso? Ma guarda, io mi spingo oltre, ha sicuramente iniziato lui, nel senso che il papato di Benedetto XVI ha portato con sé tante critiche, eccetera, però su questo punto è stato straordinariamente, diciamo, coraggioso rispetto al precedente. Veniva fuori da Giovanni Paolo II, che aveva una straordinaria popolarità, ma su questo fronte silenzio, diciamo, silenzio. Comunque aveva giocato un po' in difesa, ci fu il caso americano di Boston in particolare, e poi i casi di Los Angeles, però diciamo così erano deflagrati, però poi alla fine, diciamo, tutto il clamore è venuto fuori sotto Ratzinger, e Ratzinger in effetti ha preso in mano con un grande vigore questa vicenda, cambiando le leggi, sollecitando, però naturalmente tutto quello che fa Bergoglio ormai ha una, come dire, efficacia, una potenza decisamente superiore. Finora non se n'era mai occupato da Papa, quindi il discorso di oggi, l'omelia di oggi a Santa Marta, che è stata resa pubblica, perché la messa invece era riservata, i sei non si sa chi sono, diciamo, non si conoscono le identità, e diciamo di straordinaria efficacia, è proprio in classico stile bergogliano, e quindi è, diciamo, anche un documento che resta su questo fronte della lotta alla pedofilia. Ha usato parole straordinarie, chiedo scusa anche delle omissioni, non solo di preti, ma di chi ha coperto i medesimi, quindi diciamo che è. E poi sicuramente ha istituito una commissione tre mesi fa, ora c'è una battuta che dice, quando le cose non si vogliono risolvere si istituisce una commissione, però ecco, diciamo così, in questo caso Bergoglio ha voluto metterci, come dire, ha voluto fare una cosa sua, che risponde direttamente a lui, non c'è solo la legislazione o quello che accade nei vari paesi, ma e ci ha messo a capo l'arcivescovo di Boston, che quel frate cappuccino, cardinale, che andò a sostituire il cardinale di Boston, che fu rimosso a causa di queste vicende, quindi c'è anche un buon effetto simbolico. Ma secondo te, una cosa che ancora non ho capito, saranno penalmente perseguibili poi a questo punto con questa svolta di Bergoglio, o semplicemente allontanati? No, allora c'è il caso dell'ex nunzio apostolico, che è l'ambasciatore vaticano in Repubblica Dominicana, che recentemente, due settimane fa, doveva essere stato richiamato mesi fa, è stato condannato in primo grado sostanzialmente dal Tribunale Vaticano. Poi sarà giudicato anche nella Repubblica Dominicana dalla giustizia di quel paese, laddove lo voglia fare, però la giustizia vaticana in questo caso si è messa in moto e quindi ha avuto una condanna di primo grado, però non sappiamo bene di che cosa, però quindi anche la giustizia vaticana si è messa in moto e infatti ha avuto delle restrizioni di libertà che finora non aveva avuto, essendo lui un cittadino vaticano in quanto nunzio apostolico. Quindi diciamo che c'è effettivamente, come dire, un'azione. La verità è che deve essere un'azione talmente profonda che parte da tutti i preti, non è solamente, diciamo, una legge. La legge deve essere poi rispettata, e quindi è forse la personalità di questo Papa riuscirà a sfondare sicuramente più di quanto forse non è stato fatto fino ad oggi. Però ecco, diciamo che negli ultimi anni effettivamente l'approccio della Chiesa su questo argomento è molto cambiato. Carlo Marroni, abbiamo proprio ancora un minuto o poco meno, hai voglia di fare un brevissimo commento su quello che è successo vicino a Reggio Calabria, all'inchino durante la processione, ha fatto inchinare la statua della Madonna davanti. Beh, ma sì, lì c'è un, come dire, una vicenda che, diciamo, la vicinanza non della Chiesa ma dei capi della malavita italiana alla religione è un fatto, diciamo, storico e anche frutto di letteratura dal Padrino in giù. Però, diciamo così, la reazione è stata fortissima dei vertici della Conferenza Episcopale Italiana e probabilmente lo saranno anche del Vaticano. Non dimentichiamoci che uno dei capi della CEI è proprio un vescovo calabrese, e quindi, diciamo, c'è questa, come dire, questa reazione delle istituzioni insieme alla Chiesa che non si era mai vista fino ad oggi, così dura, quindi carabinieri, magistratura e Chiesa, che insieme, ci auguriamo anche le autorità politiche locali, insieme, diciamo, hanno condannato questo gesto, che però alcune popolazioni locali della città, insomma, alcune fasce si sono ribellate a questo clamore mediatico, quindi c'è ancora, diciamo così, da entrare in sintonia con questa nuova clima che la Chiesa probabilmente vuole portare anche su questo fronte. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao, buona continuazione. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui di nuovo insieme, stavo guardando le ultime notizie, non ci sono aggiornamenti, mi pare, ecco, in Medio Oriente questo, Gaza, braccio armato di Hamas rivendica il lancio di razzi e si continua, insomma, in Medio Oriente anche a combattere, diciamo, dopo la morte dei tre ragazzi israeliani e poi la vendetta sul ragazzo palestinese. Dopodiché, invece, le notizie della giornata sono queste, ne abbiamo parlato anche all'inizio del appuntamento rimandato tra Grillo e Renzi oggi, che ha fatto prima arrabbiare molto il Movimento 5 Stelle, in particolare Grillo, e poi invece c'è stata sul blog di Grillo la risposta del Movimento 5 Stelle alle 10 proposte del PD, erano tutti dei sì, e quindi sembra che ci sia un'apertura, anche se Folli ci diceva bisogna un po' vedere come va a finire. Padoan all'Eurogruppo, che dice che i conti italiani sono tra i più sostenibili, e poi sulla pedofilia il mea culpa del Papa. C'è Sergio Nava, che è venuto a trovarmi nuovamente per il momento dell'Europa. Europa 24 notte. Ecco Sergio, quindi Eurogruppo oggi, ciò significa il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, si sono incontrati con l'inizio quindi del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Sì, è stato, ciao Roberta, ciao agli ascoltatori, è stato il primo Eurogruppo sotto presidenza italiana, sono i ministri dell'economia dell'Eurozona, semplicemente, solamente domani si allargherà ai ministri dell'economia e delle finanze di tutta l'Unione Europea, tra l'altro domani la presidenza è strettamente italiana, oggi l'Eurogruppo ha un suo presidente che è un olandese, abbastanza rigorista, si chiama Dijsselbloem, un cognome abbastanza impronunciabile. Anche oggi è proseguita la diatriba sottotono, sottotraccia, tra chi vuole, come dire, tenere maggiormente la barra sul rigore e sul poca flessibilità o quella strettamente necessaria, e chi, come l'Italia, la Spagna, la Francia, anche l'Irlanda, vorrebbe aumentare i margini. È interessante come il commissario ad interim, commissario europeo ad interim dell'economia, Sim Callas, ha riassunto la diatriba, ha detto prima le riforme, poi la flessibilità. Questo è stato un po' il leitmotiv da parte di chi poi ha rappresentato l'Eurogruppo in conferenza stampa, e cioè fate le riforme strutturali, cercate di aumentare la crescita economica attraverso le riforme, poi la flessibilità arriverà di conseguenza. Anche se forse la flessibilità ce ne sarebbe bisogno prima, diciamo, di fare queste cose, per poter fare anche queste cose. Probabilmente lo stesso ministro dell'economia Padoan, poi uscendo, ha detto, insomma, diciamo che sugli obiettivi siamo d'accordo, sulle misure per arrivarci c'è ancora ampia. Però Padoan ha detto anche una cosa interessante, ha detto il nostro debito pubblico è molto sostenibile. È più sostenibile, ha detto. Sì. Quindi tutto sommato. Beh, è enorme, abbiamo circa il 133% di debito pubblico, però lui ha fatto presente come alcuni indicatori, come il surplus primario, piuttosto i tassi di interesse al momento molto bassi, sono positivi, ha detto manca il terzo indicatore, dovrebbe renderlo ancora più sostenibile, che è quello della crescita, al momento è molto molto molto anemica. Domani invece c'è l'Ecofin, quindi i ministri dell'economia e delle finanze. Domani la discussione proseguirà, ma domani è una data importante, perché è quella che, diciamo, il giorno in cui veramente il nostro semestre parte, perché abbiamo il primo Ecofin a presidenza italiana e abbiamo anche qui a Milano il primo vertice informale a presidenza italiana, dove si incontreranno domani nello specifico specifico i ministri degli affari interni, quindi sarà presidente di turno Angelino Alfano, e dopo domani i ministri della giustizia, e sarà presidente di turno Orlando. Domani si parlerà di immigrazione in particolare, quindi il tema sarà molto caldo, si parlerà anche di violenza contro le donne e anche di protezione civile, prevenzione dei disastri, ma in particolare chiaramente sarà il tema dell'immigrazione ad animare molto la discussione. Si parlerà di Frontex, di una task force per il Mediterraneo, cercheremo di capire se continuano le parole o se veramente ci sarà qualcosa. Tu domani ci sarai lì all'incontro, quindi poi ci verrai a riportare il tutto, esatto, le conclusioni. Grazie Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Invece vi voglio parlare di questioni sempre internazionali, ma di una nuova misura di sicurezza introdotta dagli Stati Uniti. Ricordatevi, se partite con un volo per l'America o gli Stati Uniti, accertatevi che il vostro cellulare sia carico. È anche evidentemente un computer, se ce l'avete, un tablet. Dice, vabbè, chi se ne importa, anche se poi fosse scarico. No, diventa necessario averlo carico, secondo questa disposizione introdotta dall'America, affinché telefonini, computer, tablet possano accendersi, altrimenti ve li potrebbero requisire, perché devono verificare se dentro vi sia qualcosa che possa far essere dei detonatori di un esplosivo. Ma meglio ce lo spiega adesso Andrea Margelletti, che saluto. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a te e un saluto ai vostri ascoltatori. Presidente del CESI, Centro Studi Internazionali. Quindi immaginiamo, non so, a me capita tante volte, no? Ti trovi in giro, il tuo cellulare è scarico perché non hai avuto modo, non hai trovato una presa, una cosa. Che succede? Te lo requisiscono. Allora, diciamo subito che alcuni anni fa noi avevamo dei cellulari che duravano dei giorni, mentre ormai siamo diventati tutti con gli smartphone dei mendicanti di energia che giriamo come degli zombie alla ricerca di una presa, ma questo è un problema diverso. Andare negli Stati Uniti diventa sempre più non difficile, ma certamente vi sono una serie di regole più stringenti, proprio perché l'America sente ovviamente con la situazione internazionale il rischio che vi possano essere degli elementi che vogliono nuovamente riprodurre un 11 settembre, quindi l'attenzione ai casi di terrorismo è sempre più elevata. Senti, ma diciamo è un'esagerazione questa dell'annuncio fatto dagli Stati Uniti, o davvero c'è il rischio che centinaia di cellulari scarichi, di tablet eccetera vengano requisiti e la gente si trovi poi costretta a doverli riacquistare? Io sono sempre dell'idea che la vera prevenzione si fa attraverso l'intelligence prima, ben prima che uno arrivi all'aeroporto e venga per caso beccato con un cellulare ripieno di esplosivo. Certamente se gli americani hanno deciso di fare così, evidentemente hanno avuto la contezza attraverso qualche servizio collegato che potrebbe esserci qualcosa del genere pianificato o perlomeno discusso, e quindi hanno deciso di agire in anticipo. Tra l'altro io leggevo, adesso abbiamo ancora pochi secondi Andrea, ma mesi fa che avevano ripristinato la possibilità negli Stati Uniti di portare in aereo mazze da baseball, da golf. Ho detto, questi sono matti, non ti fanno portare un liquidino magari per pulire le lenti e poi dopo ti fanno portare mazze. È stato poi cancellato di nuovo questa cosa, che tu sappia? O? No, non lo so, ma confesso la mia ignoranza su questo, ma le regole sono sempre abbastanza curiose, ecco. Cioè non possiamo portare, come correttamente dicevi tu, un liquidino, dall'altra parte c'è il rischio che qualcuno possa salire con una mazza a baseball. Mi sembra oggettivamente qualcosa di incongruo, ma la vera minaccia comunque non sono i cellulari, la vera minaccia sono le decine di cittadini occidentali con passaporto europeo o passaporto americano che si stanno addestrando a combattere sia in Iraq che in Siria, e sono cittadini dei nostri paesi, sono nostri magari colleghi di lavoro. Questa è la guardiamoci alle spalle. Questo è il vero problema del futuro. Grazie Andrea Margelletti, un futuro funesto veramente a tinte fosche. No, vabbè, noi staremo attenti. Ecco, staremo molto attenti. Grazie Andrea Margelletti. Ciao Andrea, noi ci dobbiamo lasciare ma ci troviamo tra pochi istanti.